Si tratta di una grande opera che in maniera bipartisan il centrodestra e il centrosinistra da anni e anni cerco di realizzare all'interno della nostra regione. Si tratta di una cementificazione che distruggerebbe completamente la piana fiorentina, un progetto che già nel 2018 associazioni, movimenti, anche la nostra forza politica aveva bloccato attraverso ricorso al TAR con una sentenza al Consiglio di Stato che aveva messo una pietra tombale rispetto a questo progetto di allungamento della pista di Peretola per gli effetti devastanti dal punto di vista ambientale. Non contenti, però, si prova a cercare nuovamente una forzatura da parte della Regione Toscana e di Corporazione America, ovvero la multinazionale che è il socio di maggioranza della società Toscana Aeroporti, il cui presidente è Marco Carrai, all'interno del cerchio magico del governo Renzi, che fu quello che stanziò le prime risorse, le prime decine di milioni di euro necessari a quest'opera, e quindi si prova nuovamente una forzatura basata su una idea fondamentale, cioè si nega il cambiamento climatico, l'emergenza climatica, ma soprattutto si investono migliaia di risorse pubbliche su un investimento assolutamente controproducente dal punto di vista anche del trasporto. In una regione che ha grandissime difficoltà sul trasporto ferroviario si continua a insistere invece nella creazione di un'opera che ha semplicemente un fine speculativo, che avrebbe dei pesantissimi impatti ambientali, ma anche per quanto riguarda tutto il territorio della piana, tanto che enti locali, comuni, l'Università di Firenze, movimenti, associazioni, ancora una volta, così come nel 2018, stanno ricorrendo nuovamente al TAR di fronte a una forzatura che prevede necessariamente non solo risorse pubbliche, ma prevede anche una serie di interventi che andrebbero a colpire direttamente una zona, così come abbiamo visto negli ultimi anni, ogni volta che è stato oggetto di emergenze climatiche è stata completamente allagata. Perché, a tuo avviso, nonostante già una prima bocciatura, le istituzioni insistono su questo progetto? Ma si tratta qui di uno scontro fondamentale fra interessi pubblici e interessi privati. Il centrosinistra in Toscana ha svenduto negli anni passati il sistema aeroportuale toscano, consentendo l'ingresso di questa grandissima multinazionale, appunto Corporazione America, e in questo caso ancora una volta chi governa la nostra regione, ma con una piena alleanza col governo nazionale, tanto che l'opera è benedetta tanto dal presidente della regione Giani quanto dal ministro delle Infrastrutture Salvini, si cerca di andare a tutelare quelli che sono gli interessi privati. Il sistema tipico delle grandi opere che porta devastazione, che portano precarietà, che portano sfruttamento. Questo è l'interesse oggi in gioco sulla pista di Peretola. Nulla a che vedere con un'idea funzionale di una riorganizzazione del sistema aeroportuale e del sistema di mobilità nella nostra regione. È proprio il tema del modello di sviluppo, di quale economia si vuole realizzare all'interno della nostra regione. È questa la partita che c'è in gioco ed è importante che associazioni, comitati e movimenti in maniera unitaria stiano portando avanti una battaglia dentro e fuori le istituzioni, e a questo punto anche in sede giudiziaria, dove noi siamo ottimisti perché c'è una sentenza già precedente del Consiglio di Stato che ha detto chiaramente che quel tipo di opera, per gli impatti che avrebbe, non può essere realizzata. Altrettanto nessun'opera di compensazione a nostro avviso può essere accettata. Il tema delle compensazioni sulle grandi opere significa inserire un tema di mercanteggiamento su una risorsa che non è infinita, ovvero il suolo, ovvero la tutela dell'ambiente. Certo, ma l'obiettivo quale sarebbe? Creare una nuova pista per aumentare poi, come dire, i voli sull'aeroporto? Perché sappiamo che in diverse città progetti di questo tipo vengono avanti per favorire il turismo, che in realtà sta producendo anche altri impatti, no, sulle città. Sì, l'obiettivo è di realizzare appunto questa nuova pista da 2200 metri. Il primo progetto iniziale che era stato bocciato era di 2004, sarebbe ridotta di appena 200 metri, ma gli impatti sarebbero essenzialmente gli stessi, per costruire quest'idea del brand del sistema aeroportuale toscano, per incentivare, per questo ricordavo prima, il modello di economia e soprattutto quale modello di turismo. Firenze è emblematico, ma noi veniamo da una città come Pisa in cui alcuni fenomeni arrivano più tardi. È evidente che i processi di turistificazione e gentrificazione stanno divorando le nostre città, quindi il tema di fondo è: possiamo immaginare un'economia invece che si fonda su un'idea di rilancio del grande parco della piana fiorentina, oppure l'unico modello è quello del turismo che consuma le nostre città? Questa è la partita in gioco. L'altra partita in gioco è anche quale qualità del lavoro, perché si parla di un'idea di sviluppo sostanzialmente senza limiti dei sistemi aeroportuali, al cui interno abbiamo visto più e più volte, ci sono tantissime vertenze importanti all'interno della società di Toscana Aeroporti, di condizioni di grande precarietà e di sfruttamento dei lavoratori diretti e indiretti di questa società e di tutto il sistema degli appalti. Quindi c'è un tema che mette insieme, e per questo parlo di modello di sviluppo, ambiente, territorio, qualità del lavoro, idea di sostenibilità e quale idea poi c'è anche di futuro per il nostro territorio. Questa è la partita di carattere nazionale nazionale che si gioca sulla pista di Peretola, in cui sostanzialmente ad oggi gli unici finanziamenti esistenti non sono del soggetto privato, ma sono di finanziamenti pubblici, di 140 milioni di euro che investì, che stanziò con il governo Renzi per quest'opera. Anche qui si tratta di una scelta di carattere strategico, si investe per realizzare centinaia di milioni di euro per realizzare una nuova pista che avrà questi tipi di impatti, oppure si mettono e si realizzano degli investimenti per potenziare il sistema ferroviario lungo la linea Pisa-Firenze in tutto quanto il nostro territorio regionale. E questo è anche il tema che c'è alla base della vertenza che riguarda Peretola.